Buonasera a tutti, inizia Azzardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica. Anche oggi, 22 maggio 2025, iniziamo e andremo avanti fino alle ore 21:30, ma andiamo subito con la sigla di questo programma. Bene, questo brano è la sigla di inizio per questa trasmissione che è Azzardins Magnetics, che andrà in onda fino alle ore 21:30 qui in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane. Ricordo che il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Oggi giovedì 22 maggio 2025, quindi in diretta per chi ci sta ascoltando, ovviamente. E ora andiamo all'ascolto di una band inglese. Loro sono di Birmingham, band che si è formata alla fine degli anni 70, e esordirono con questo EP 12 pollici che si intitola Leather, Bristles, Studs and Acne. Loro erano i Charged GBH, band che appunto in parallelo ai Discharge all'epoca uscivano sulla stessa etichetta discografica. Comunque noi ci ascoltiamo i GBH. Bene, allora, come ho detto prima, siamo in diretta radiofonica, quindi se facciamo degli sbagli enormi, voi ve li beccate come ce li becchiamo noi, cioè questa è causa nostra, tra il fatto che forse in sottofondo sentivate pure il temporale, vabbè, io comunque l'avevo presentato come EP 12 pollici, di conseguenza EP che va a 45 giri, e dopo averlo detto ovviamente ho pure sbagliato. Va bene, GBH. Allora, siamo in voce anche noi questa sera. Un saluto anche da parte mia a tutte e tutti voi che ci ascoltate su Radio Onde Furlane FM, oppure come sempre ci ascoltate anche in streaming, oppure forse ci state ascoltando ed è venerdì sulle web radio Radio Stacchio e Radiazione. Ma vado, senza rompiamo gli indugi, vado solo semplicemente in questo primo intervento così a dare una chiarificazione grossolana della frase promo di questa settimana, che era abbastanza oscura. Motivo è che le idee erano anche abbastanza così in alto mare, ma comunque la frase è questa: al di là di opinioni e polemiche, al di là del verbalismo social, la gioia di stare assieme e la passione collettiva per poter rompere l'incantesimo spettacolare. È una frase che così l'ho messa insieme personalmente io stavolta, mi è venuto in mente, cioè, ho provato una sensazione così un po' di disagio così, certe situazioni così molto dove c'è questa pressione la cappa dei social, ecco, di commentare, di esserci, di diffondere, di partecipare sempre con questi strumenti infernali. E mi è venuto incontro in aiuto un libro, un vecchio, vecchissimo libro, addirittura oltre 30 anni fa, di cose che non esistono più, racconta di cose inesistenti, le ha scritte anche un morto, un defunto. Il libro di cui parleremo stasera, non perché parliamo di libri, ma è un libro che smuove, dai, a me mi ha smosso un po', e si collega anche ad altri discorsi che avevamo fatto tempo fa, ed è I Furiosi di Nanni Balestrini, cioè sono storie degli ultras, Brigate Rossonere, gli ultras del Milan degli anni fino 80, primi 90. Ecco, vedremo un po' queste cose qua, come srotolarle, e per il momento andiamo ancora con un po' di musica. This is not about money. This is about power. We'll be right back. E niente, così partiamo direttamente con questo lavoro che vi dicevo di Nanni Balestrini. Nanni Balestrini, forse ne abbiamo già parlato, scrittore, poeta italiano, nato nel milanese, nato nel 1935 ed è scomparso nel 2019 e ha partecipato alle lotte del, diciamo, della fine degli anni 60 e degli anni 70. E era, faceva parte di Potere Operaio e finì tra gli arrestati del processo 7 aprile nel 79. E, come si dice, fece una, fu latitante, diciamo, in Francia durante il procedimento. Poi nell'84, appunto, quando fu riconosciuto non colpevole, rientrò in Italia. Allora, ci sono delle, dicevo prima, delle così dei fili conduttori con altre cose che dicevamo in altre puntate di Tardis Magnetics. Un filo conduttore è quel discorso di, diciamo così, di intellettuale impegnato, di impegno intellettuale, cioè di intellettuale che si toglie l'abito intellettuale e scende in strada e partecipa direttamente e ascolta chi ha intorno, si mette in gioco, eccetera. Ed è un diciamo un aspetto che lui ha anche in comune, insieme a lui c'è anche Primo Moroni, ecco, una, così, un interesse per l'analisi, ma non l'analisi astratta, l'analisi molto concreta dei movimenti sociali, dei movimenti di protesta, eccetera, eccetera, che non si esaurisce con, appunto, con quella, un grosso movimento degli anni 70, ma continua appunto anche durante la cosiddetta il riflusso e anche oltre, no? Finché hanno vissuto questi due personaggi, si sono comunque stati curiosi, si sono interessati dei movimenti cosiddetti giovanili, prima appunto con non so, con la, anche con primi movimenti, primi, diciamo, fenomeni del punk italiano, con l'occupazione del virus, eccetera, eccetera, eccetera, e poi anche appunto con questo lavoro più narrativo con le tifoserie. C'era questo, in quegli anni là, c'era in quegli anni là, che sono fine 80, cioè tutti gli anni 80, ma è continuato, insomma, in tutto il decennio, c'era questa cosa pressante del problema della violenza, diciamo, il problema della violenza negli stadi. C'erano questi fenomeni che, tra parentesi, esistono ancora, e nonostante tutte le blindature che hanno subito questi momenti, appunto, di furia incontrollata e anche talvolta anche demenziale, spesso demenziale, e continuano nonostante anche tutta la repressione. Ma andiamo direttamente a, così affrontiamo un po' questo lavoro, I Furiosi, che è uscito nel 94, all'inizio del 94. Piccola introduzione, solo per dire, i racconti sono incentrati su queste trasferte, soprattutto quando si andava a vedere le partite in trasferta. Quindi venivano caricati o sui famosi treni blindati oppure su certi pullman rottame, perché tanto sapevano già che venivano le società sapevano già che i tifosi sfasciavano i pullman, quindi erano letteralmente adesso andiamo a vedere, insomma. Allora, ci avevamo messo una cifra di tempo a andare e tornare da Ascoli con quel pullman di merda, perché sanno che li distruggiamo e allora ci danno tutte le merde di pullman, ma il peggio di tutti è stato quello che siamo andati a Barcellona. Ci abbiamo messo 50 e passa ora, andare e tornare, l'autista dopo 6 mesi è morto di infarto, anche quello che ci aveva portato a Vienna qualche mese dopo è morto, è andato giù dalla scarpata con un pullman di suore, è morto e c'era mancato poco che faceva una strage. Anche quella volta che siamo tornati con lui da Vienna era notte, tutti che dormivano, anche l'autista dormiva, e io a un certo punto ho sentito tu tu tu tu tu tu, ho visto che c'erano tutti i segnali illuminati, Achtung Achtung, c'era la strada che si stringeva con i paletti in mezzo, si sentiva tu tu tu tu, tutti i paletti schiacciati, ho guardato in fondo al corridoio e ho visto l'autista con la testa giù che dormiva. È partito un urlo generale, l'abbiamo svegliato appena in tempo, scene da panico appena un attimo prima. Perché gli autisti o diventano uno come te, che quando ti fai un autogrill sono più forti di te e la prima forma di grana è per lui, o se no sono dei testoni, non accettano dialogo e per strada ogni tanto sbagliano strada o fermano i pullman di notte in montagna, come quella volta dove cazzo eravamo, c'era uno che lo chiamavamo Ciglione. Quello a un certo punto ferma di colpo il pullman, così di traverso, metà sulla corsia di mezzo, metà sulla corsia normale, lì in mezzo alla nebbia di montagna, blocca il pullman e si mette a urlare: basta con quelle sigarette di merda, voi non dovete più fumare quella roba, perché a me mi viene il mal di testa. C'eravamo fatti 5-6 kg di canne e c'era più nebbia lì dentro il pullman che fuori, perché faceva freddo, non si poteva aprire i finestrini, non si vedeva quello che seduto di fianco a noi, e tutti a gridare: Maciglione, figlio di puttana, vai vai che ci vengono addosso, e la gente tutta che si alza, scappa in avanti per scendere, è sconvolta, qua adesso arriva un tir, ci viene dentro, e la fine per tutti e la fine anche per te Ciglione. A Barcellona, quella volta che ci abbiamo messo tutta quella cifra di tempo per andarci, il nostro pullman era proprio uno spaccio internazionale di stupefacenti. Ci avevano chiesto 50.000 lire a testa per andare a Barcellona. In più, avevamo giù delle tippe che avevamo conosciuto al mare, ci siamo presentati la mattina e ci siamo trovati davanti un lamierone bianco, un lamierone come non l'avevamo mai visto. Questo pullman qua era talmente da battaglia che non aveva più neanche i vetri, al posto dei vetri c'erano dei pezzi di plastica con il pongo che li teneva su. Puro Mad Max, di notte entrava l'aria, si ghiacciava, ti svegliavi con la faccia ghiacciata, c'erano i sedili che dove appoggiavi la schiena era un pezzo di sedile di un tipo, dove tenevi il culo un pezzo di un altro sedile, un recupero unico, e in fondo invece di esserci 3 sedili c'era un divano da casa, un inferno, un pullman per l'inferno era quello. Allora, niente di eccezionale, fin quando arriviamo in Spagna. Allora entriamo in Spagna e Ciglione dice: devo fare benzina, dai fermati testone, vaffanculo, così ci laviamo i denti. Sancho Pancia, insulti, ormai in continuazione, perché aveva cannato un'entrata, ci aveva fatto perdere 2 ore invece di prendere l'autostrada a Arles. Arrivato a una rotonda, ha fatto 3 giri di rotonda, di qua, di là, non sapeva dove andare. Porco Dio, ci siamo trovati a Tolosa, quando ci siamo accorti gli si è buttato addosso il nibbio: vai via di lì, ha preso il volante, tu adesso ti sposti che adesso guido io, pagliaccio. Quasi uscivamo di strada, insomma ci fermiamo a far benzina in Spagna la mattina alle 8, perché era già passato un giorno da quando eravamo partiti. Scendiamo giù tutti sporchi, strafatti, con lo spazzolino, chi ce l'ha e chi non ce l'ha va a rubarsi, chi non ce l'ha va a rubarselo. Poi quando torniamo, Fischione fa lì nella casetta del benzinaio, ci sono i soldi, trac, sono entrati lui e Germano e hop, via sul pullman, dai Ciglione, veloce, su, tutti sul pullman, via via, veloce. E Ciglione non capiva, perché cosa c'è? Cosa c'è? Calma, dai, dai porco Dio, accendi il pullman e vai via, vai via, vai via. Finalmente siamo riusciti a partire, una bella mazzetta, facevamo 5 milioni di lire, tutti i biglietti da 5.000 pesetas appena presi dalla banca con le striscette, così al ritorno tutti avevano i loro sacchetti di fumo comprato nelle Ramblas, 7 kg e mezzo di fumo, ci siamo riportati, poi arriviamo a Barcellona, Plaça de Catalunya. Facciamo il gruppetto nostro, siamo andati al ristorante più grande sulle Ramblas, c'era Falco, Bubo, Verdone, c'eravamo lì tutti, poi subito i cori, scappiamo, scappiamo perché abbiamo fatto il colpo in Spagna. Poi usciamo dal ristorante, avevamo parlato col tipo che ci procurava il fumo, avevamo l'appuntamento in una vietta dove c'è il mercatino delle Ramblas e lì vediamo che arrivano lui e tutti i ragazzini che avevamo lasciati il mattino. Arrivano di corsa e dicono in fondo alle Ramblas, saranno in 200, tutti skin, coi bastoni, dai andiamo a vedere, ma poi lì non c'era nessuno, non si è capito bene, ma intanto loro avevano devastato il mercatino, avevano rubato tutto, roba da mangiare, magliette, tutto avevano rubato. Va bene, poi continua e che... insomma, solo per dire come va a finire, li trovano e sfasciano un bar, un pub lì, non so, va a finire che vincono loro. Comunque, ecco, questo era un primo, una prima scelta, potrei anche lasciare un po' di musica. Che un momento viene aria. E andiamo avanti con questi così scelta di brani da I Furiosi di Nanni Balestrini. Altro personaggio. Adesso faccio solo la transenna, che è la cosa in assoluto più importante, nel senso che tu sei lì considerato e rispettato da tutti. Io ho il microfono in mano e guido i cori e devo far funzionare tutto il tifo. Per esempio, mercoledì, quando ci sono le partite di Coppa, c'è spesso un po' di ammosciamento e la gente non canta. Allora io mi incazzo e faccio una predica di 5 minuti, li offendo. Ma come? Noi saremmo la mitica curva del Milan, la curva che ha 20 anni di storia. Voi venite qua, pensate solo a farvi le canne, cosa che è sacrosanta. Però se sei qua senza un minimo di partecipazione, allora è meglio che vai a vederla da un'altra parte. È meglio che non vieni qua in curva, vai da un'altra parte. C'è uno stadio che non finisce più, c'è posto per tutti. Come nella vita, ci sono quelli che stanno solo a guardare. E poi invece ci sono quelli che le cose le fanno e le vivono fino in fondo. Anche mio padre, che è milanista, è uno che non viene qua perché lui la partita la vive in maniera diversa. E se no, andate al cinema. Oggi mercoledì costa anche meno. E se invece volete star qua, dovete cantare giù tutti a applaudirmi. E poi cantavano tutti. Stare in transenne è faticosissimo, bisogna gridare per 2 ore in continuazione. Delle volte mi chiedo perché lo faccio. Domani per esempio vado a Napoli, so già che quando sarò là sarò stanco, viaggio, treno, fumi, sei fuori, bevi e quando arriverò allo stadio non avrò nessuna voglia di farlo. Mi capita tutte le domeniche, però poi è più forte di me, nel senso che una volta che sono lì mi sembra di entrare in una parte di un meccanismo in cui sono una rotella fondamentale. Se non giro io fatica a girare tutto quanto e poi tutti che mi spingono, dai, vai, su, forza, mi fanno, Falco, vai, vai, ci sono 300 persone che gridano il tuo nome, e così tu vai, e appena sali su, ti fanno l'applauso. Io inizio sempre allo stesso modo, saluto, faccio delle battute, ciao a tutti, che cazzo fate, siamo in diretta, mi raccomando, ci sono tutte le merde d'Italia che ci stanno guardando, e poi comincio con i nostri cori. Sono cose spontanee, i motivi sono quelli che tutti conoscono. Ce n'è uno che facciamo sempre, perché il Milan è forte a lei, sul motivo della stangata. E quando parte questo coro, tutto lo stadio parte con entusiasmo. Le poche volte che parlano bene di noi, i giornali, dicono che siamo il 12° giocatore in campo, cioè per l'apporto che diamo alla squadra, ma in verità il Milan siamo noi, non i giocatori. Chi tiene il ritmo della partita siamo noi, ci sono i momenti in cui noi partiamo e allora i giocatori corrono di più, ci sentono, noi diamo la spinta, questo è quello che conta, quello che prova la gente che viene in curva, l'orgoglio di sentirsi di appartenere a qualcosa. E per questo ci inventiamo sempre dei cori nuovi. Un giorno è venuto lì in transenna un ragazzo, mi dice: Falco, senti, ma perché prima di fare "perché il Milan è forte a lei" non facciamo così? Forza Milan, il Milan a lei, forza Milan, Milano è con te. Siamo sempre al tuo fianco, io di te non mi stanco, sei la cosa più bella che c'è. E poi via con "perché il Milan è forte a lei". Io ero lì col microfono tappato, perché ne arriva sempre di gente che dice "fai questo, fai quello", ma mentre lui me lo diceva mi veniva la pelle d'oca e io l'ho detta subito al microfono. E c'è stato un applauso che non finiva più, la gente applaudiva, era contenta di quelle parole. C'è una canzone inglese che noi facciamo che è l'inno del Liverpool, che è Walk On, una canzone degli anni 60 che è stata presa dai tifosi del Liverpool come loro inno, col ritornello che dice walk on, with hope in your heart, and you never walk alone, you never walk alone. C'era uno di noi che aveva il disco con questi cori, che lì da loro non c'è nessuno che li dirige col microfono, partono spontaneamente, parte questo walk on, che sembra un urlo che viene da lontano, e così noi abbiamo cercato di impararla, abbiamo dovuto fare i foglietti con su com'era scritto, perché molti dicevano welcome, cioè benvenuto, invece di walk on, camminiamo. Abbiamo spiegato che cosa voleva dire e tutto quanto, finché siamo riusciti a impararla questa canzone, e ci ha resi famosi in tutta Europa, perché l'abbiamo fatta quando sono morti i tifosi del Liverpool schiacciati contro le transenne a Sheffield, è successo al sabato, e noi domenica avevamo la partita col Real di Coppa Campioni, che abbiamo vinto 5-1, una partita memorabile. E continua con questa cosa di walk on, insomma, che erano molto grati gli inglesi, che dopo questo fatto i tifosi del Milan avevano fatto un coro con il sì, caratteristico del Liverpool. Ma noi stiamo avanti, invece un altro personaggio diciamo che era partito politicizzato e poi si è unito a, a questi ultras. A me la violenza mi piace, può essere anche perché ci sono nato in mezzo, perché abitavo in un paese qua fuori che quando avevo 6 anni c'erano 7.000 abitanti e 5 anni dopo ce n'erano 17.000. C'è stato un grosso arrivo di gente del sud e lì ti trovavi di fronte tu con la tua cultura e loro con la loro cultura, che comunque era una cultura di sopraffazione, perché lì erano sempre loro i più forti, ti prendevano tutto, ti prendevano la bicicletta, non è che lo facevano di nascosto, te la prendevano così, apertamente, e se ne andavano via con la tua bicicletta, allora tu chiamavi tuo padre e in genere tuo padre in più te le dava anche. Ma io non è che mio padre me le dava, lui mi diceva di arrangiarmi, mi diceva sono fatti tuoi, te la vai a, a riprendere te la bicicletta, poi invece con quelli ci cresci insieme. Perché comunque ci vai a scuola insieme, ci fai le cose insieme e ci diventi amico. La sera andavamo nell'orto del prete a rubare i cacchi, poi andavamo dall'altra parte del naviglio dove passano le macchine per lanciare i cacchi contro le macchine e poi scappare via. Andavamo a rubare lì, c'era un casino di fabbrichette che poi hanno chiuso, ne avevano aperte una marea quando c'è stato il boom, poi ne hanno chiuse tante. E dentro c'era rimasto ancora tutto, come alla Walt Disney. Noi ci entravamo dalle finestre rotte, io avevo 8 anni, il più grande ne aveva 11, abbiamo rubato roba per 70 milioni, tutte le spillette con Pippo e Topolino, e lì facevano anche le cose per il teatro, per la Scala, i grandi bracciali di bronzo, con sulle pietre finte. Poi qualche anno dopo andavamo alla biblioteca, c'era lì sotto casa mia la biblioteca con una bibliotecaria bravissima che si chiamava Sabina. Quello era diventato il nostro ritrovo quotidiano, lì arrivavano tutti i giorni tutti i quotidiani, le riviste, era diventato un punto di ritrovo per tutti. Dalle 5 in poi quelli che tornavano dal lavoro andavano lì invece di andare al bar, e davanti alla biblioteca c'erano due tavoloni, si trovavano tutti lì, discutevano, litigavano, e lì abbiamo cominciato a formarci politicamente, a discutere di tutte le cose. Quella volta, quando l'MSI ha preso un seggio al Consiglio Comunale, è stato nel 77, aveva preso più di 800 voti alle comunali, ha avuto un seggio, e noi quella sera siamo andati in Consiglio Comunale, ci siamo andati tutti noi ragazzi, c'erano anche i partigiani, e quando è arrivato questo qua dell'MSI senza un braccio, accompagnato da uno zoppo e da uno che invece era normale, tutti giù a fischiare, a urlare, e poi il sindaco comunista ha detto: adesso diamo la parola al consigliere del MSI, perché nella prima seduta parlano tutti i consiglieri. Allora è successo il finimondo, non si sentiva più niente, urla, fischi, casino, eravamo venuti tutti coi cartelli che ci eravamo fatti. Io ero in piedi su una sedia che tenevo uno di questi cartelli grandissimi che diceva le varie malefatte dei fascisti, dalle bombe alle stragi, tutte le loro malefatte varie. Quello ha fatto per parlare, ma non è riuscito a farsi sentire. Fischi, insulti, alcuni partigiani hanno strappato la testa del PC perché il sindaco comunista gli aveva permesso di parlare, e ci sono stati un po' di spintonamenti con i due carabinieri del paese. Poi noi siamo usciti e dopo un po' c'è stato un casino della Madonna, perché a mezzanotte sono arrivati 12 blindati dei carabinieri con le moto davanti e le macchine della questura di Milano dietro. Avevamo fatto un corridoio davanti al comune, il consiglio comunale era finito e c'erano più di 200 persone infuriate che aspettavano questi qua dell'MSI. Uscivano fuori, allora i carabinieri si sono schierati, da una parte, ho sentito un commissario che diceva se li sfiorano solo li ammazziamo tutti, e il maresciallo dei carabinieri di qua gli ha detto non ci provate, sennò qua viene fuori la rivolta, perché a quei tempi là, quando succedeva qualcosa, i carabinieri arrivavano in piazza e portavano via qualcuno mezz'ora dopo, davanti alla caserma c'era tutto il paese, e allora lo liberavano, perché se no c'era la rivolta, un bel clima di rivolta c'era allora. Lì i ragazzi, quelli del sud specialmente, quelli piccoli ma che avevano dei fratelli che già militavano nei movimenti, nei gruppi sia di destra sia di sinistra, succedeva che per affinità, se il fratello grande era di sinistra, loro erano di sinistra, eccetera, e picchiavano quelli di destra, e viceversa. Io avevo mio padre che vendeva l'unità, la domenica faceva l'artigiano, faceva i mobili. Mio padre era sempre stato uno moderato, non è mai stato uno violento, e così ho iniziato dalla FIGC. Va avanti, quel clima lì degli autonomi con i lacrimogeni, gli scontri, era anche un gioco e a me piaceva, mi attirava. Poi dalla FIGC, da Lema, mi ha buttato fuori perché leggevo Lotta Continua dentro la sede, mentre un giovane comunista deve leggere solo Città Futura, come cavolo si chiamava allora. Allora cominciavo ad andare ai cortei, ero in quinta elementare quando c'è stato quello per Zibecchi, che la polizia gli aveva schiacciato la testa con un blindato. Poi alle medie avevamo fatto un collettivo, avevamo avuto la fortuna di avere un professore bravo, quello che faceva storia, geografia italiano. Questo qua ci ha stravolto tutto il programma, diceva: se tu sei un comunista devi studiare questo e questo per essere un buon comunista. E facevamo assemblee in classe, facevamo gli scioperi, così ho cominciato a frequentare i collettivi. Il nostro collettivo era la compagnia della piazza, ci si trovava in piazza per affinità, andavamo ai concerti, andavamo al Palalido e ogni volta che arrivavamo noi, petardi, razzi, molotov, e dopo 5 minuti c'era la guerra al Palalido. E direi di mettere un po' di musica, poi ancora un solo per concludere una lettura ancora e poi qualche considerazione. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on. Continuiamo ancora qualcosa, qualche lettura, mentre sono, insomma, siamo alla metà di questo Zardins Magnetics di giovedì 22 maggio e ci avviciniamo ad altri argomenti, cioè una serie di altri argomenti che stavano, diciamo, in sottofondo a queste letture. Io al Beccaria ci sono andato la prima volta perché avevo commesso una rapina a mano armata. Mi hanno detto: ti diminuiamo la pena se vai in collegio. Avevo 14 anni in questo collegio, non mi facevano andare alla partita. Io ci sono stato 6 volte al Beccaria, la prima a 14 anni. poi la seconda a 15, a 16 c'è stata una pausa, poi a 17 due volte, anzi tre, abitavo Quarto Giaro, detto anche il Quarto Raggio, poi a 12 anni sono finito a Gratosoglio perché non ci stavamo più dentro quella casa, era piccola, e siamo finiti a abitare a Gratosoglio. Mia madre lavorava in un asilo nido, l'anno prossimo va in pensione, mio padre è diviso da mia madre, non gli è mai fregato niente della famiglia, di niente, siamo quattro fratelli e una sorella. Io andavo a rubare perché mia madre di soldi non me ne poteva dare, andavo a rubare per andare allo stadio, per i miei divertimenti, per farmi gli spinelli, mi hanno beccato in un supermercato e allora mi hanno mandato in quel collegio per vedere se riuscivano a redimermi sulla strada giusta. In quel collegio di Salesiani. Mio padre lo vedo domani, vado a lavorare con lui, ha trovato un lavoro, deve demolire una villa in piazza Axum, lì dietro lo stadio, lui non mi ha mai dato un cazzo, mia madre nemmeno, e allora andavo a rubare, quando sono andato dai Salesiani ti facevano pregare la mattina fino alle 8, io ho già mia madre che è testimone di Geova e mi bastava, mio fratello più piccolo, lui adesso ha 15 anni e anche lui l'hanno messo in una comunità di ragazzi che non vanno a scuola come me. Noi siamo proprio squilibrati di famiglia, mio padre ha mollato mia madre 20 anni fa, comunque io quando ero in collegio il sabato pomeriggio saltavo dalla cancellata della piscina, che erano 5 metri, saltavo giù per andare alla partita, facevo la notte di sabato in giro da qualche parte, macchine rubate, roba così, e la domenica mattina andavo allo stadio, o se c'era trasferta, col pullman che partiva la notte, andavo lì dove si prendeva il pullman. C'è stata una domenica che non mi hanno lasciato andare alla partita perché sabato mi hanno chiuso in infermeria con la porta blindata, sbarre alle finestre, io ho tentato in tutte le maniere di rompere i vetri, di levare le sbarre, non ci sono riuscito, ma la domenica dopo c'era la Juve e allora sono scappato via il venerdì in modo che così li anticipavo, allora loro cominciavano a chiudermi dentro da venerdì. E così l'ultima volta sono scappato il giovedì, ho avuto 19 denunce di scomparsa da questo collegio, poi dopo lo stadio andavo a casa e il lunedì mi venivano a prendere i carabinieri e niente, hanno tentato in tutti i modi di raddrizzarmi in questo collegio ma alla fine non ci sono riusciti, il direttore mi ha cacciato via dal collegio e per concludere gli ho rubato una macchina fotografica da 2,5 milioni, mi è venuto a cercare a casa e mi ha detto: picchio, tu mi hai rubato la macchina fotografica, eh? E tu mi hai rubato la macchina fotografica. Può anche darsi, gli ho detto io, però non gliela ridò la macchina fotografica. Va bene, ci fermiamo qua e chi vuole, insomma, si procura il libro, insomma, che interessa, però che sì, è più divertente che sentirlo leggere così. E pochi giorni fa invece è successo di nuovo un fatto simile a quello che aveva coinvolto cioè l'uccisione da parte degli sbirri di Rami nello stesso quartiere al Corvetto a Milano. Nella notte tra martedì e mercoledì un 21enne Mahmoud Mohamed è deceduto dopo essersi schiantato con uno scooter contro un semaforo. Secondo le prime informazioni era inseguito da una volante, pare che non avesse la patente, era un ragazzo di origine libiche, guidava anche lui un T-Max, lo stesso scooter che guidava Rami, tra l'altro erano della stessa compagnia di ragazze, insomma si frequentavano. E quello che fa invece rabbia è che i media, a parte delle eccezioni, insomma come danno le notizie, in media, a parte i soliti, insomma, immondi di destra tipo Capezzone, gente così, che vomitano le loro idee balorde, ma i media hanno inizialmente detto che i familiari sono andati in ospedale e hanno aggredito il personale sanitario, sempre mettere in difficoltà, no, le persone così che sono già in una situazione disperata, tragica, e si è chiarito subito che erano andati al pronto soccorso, erano presenti un pochi di loro a informarsi e volevano sapere come stava il ragazzo, il loro parente, il loro caro, non hanno aggredito nessuno, però subito insomma mettere in moto questi meccanismi soliti di ignobili, insomma di distruggere, no? Distruggere quello che, a parte insomma la realtà, ma anche distruggere la dignità delle persone. E niente, questi racconti così, insomma, così molto molto espressivi, diciamo, di questi ragazzi degli anni 80 e 90 si legano, dicevo prima, a un'analisi che facevano alcuni, insomma, come Nanni Balestrini, anche come Primo Moroni, e di cui avevamo parlato. C'era, se ricordate, avevamo parlato di questo opuscoletto di qualche anno fa, sul che era una sbobinatura di un'intervista a Primo Moroni, e a me aveva colpito la parte finale dove raccontava appunto di quando era stato in questa enorme discoteca, siamo appunto nel 90, quando era stata approvata la legge Iervolino Vassalli, mi sembra, una delle prime leggi repressive anche sui consumatori di sostanze. E a me aveva colpito che lui appunto raccontava di questa enorme discoteca di Brescia con tipo 10.000 persone dentro il sabato sera che andavano a sballare, e dove lui insomma metteva a fuoco questa situazione che, a differenza dei decenni precedenti, insomma, quando comunque esistevano lo stesso le persone marginali o le persone anche povere, ma se volevano qualcosa se la procuravano, bene o male, insomma, queste tipologie invece di persone, di giovani, ecco, dai 20 ai 25 anni degli anni primi 90, erano talmente inglobati in questo sistema di estorsione del capitalismo, che andavano a lavorare come matti tutta la settimana, dalle 50 alle 60 ore, in tutte le piccole aziende dell'indotto, di quel fenomeno che è stato la ristrutturazione industriale negli anni 80 e 90, insomma, dove sono state iniziate a smembrarsi le grandi industrie e appunto a atomizzarsi in piccole medie aziende per bloccare, anche per distruggere anche l'unità del movimento così dei lavoratori. E ecco, era per lui, appunto, dice questa frase: il capitalismo materializzato nel vissuto quotidiano, perché comunque si facevano le 50-60 ore di lavoro settimanali e per recuperare tutto ciò di cui si è stati privati nel tempo di lavoro durante la settimana, si va in queste discoteche dove appunto, oltre alla spesa per l'ingresso, per la consumazione, per le sostanze, per l'ecstasy, per tirare avanti tutta la notte dopo la settimana di ore e di straordinari, e inoltre con le BMW da pagare a rate, e inoltre dovendo rimanere in famiglia perché è insostenibile uscire di casa, eccetera eccetera. Era una situazione di stritolamento quella lì, di, siamo sempre 30 anni fa. Contava per me, insomma, solo cioè, ovviamente quello che conta è l'aver colto, ecco, l'analisi, la fotografia che viene fatta, no? Non i soggetti fotografati, o meglio, insomma, hanno un interesse anche quelli, ma la lungimiranza dello sguardo, ecco, di questi questi due intellettuali di cui abbiamo parlato. E cosa dire ancora? No, appunto, mi veniva in mente tutto questo anche con il fatto di cronaca di cui ho detto, al Corvetto lì, di qualche giorno fa, scandaloso. Poi magari adesso lasciamo un po' di musica e magari nel prossimo intervento si va avanti anche su qualcosa che è successo anche da queste parti. Yeah. Sì, vi saluto anch'io. Allora, in questa seconda parte di Zardins Magnetics di giovedì 22 maggio parliamo di qualcosa che è successo anche qua a Udine, appunto a volte i pugni tornano indietro a chi solitamente ha il monopolio della violenza. Parliamo delle forze dell'ordine e cosiddette forze dell'ordine, appunto. Cosa è successo qualche giorno fa, il 19 maggio, in via Spalato? È successo che un detenuto che viene definito dalla stampa ex pugile, ma comunque indifferente, un detenuto che evidentemente sa difendersi, praticamente ha così messo in difficoltà ben tre agenti. Vabbè, poi si sa come vengono un po' così imbastite, come vengono date le notizie, si diceva anche prima, no? E si tende sempre la stampa così che ha servita evidentemente alla polizia, insomma, che addirittura riceve direttamente le veline dalla polizia, tende a così ingigantire anche gli episodi di insubordinazione all'interno delle istituzioni totali, delle strutture carcerarie, e poi tende anche a togliere umanità e dignità a chi appunto ha cercato di ribellarsi, di attaccare oltre che di difendersi. Allora, intanto va detto che questo detenuto era stato oggetto di una contestazione disciplinare, quindi gli era appena stata fatta una contestazione disciplinare da parte del comandante perché aveva tirato un'arancia a un secondino e insomma l'aveva insultato, robe così, e quindi era molto arrabbiato, insomma, e quindi da qui scaturisce questo diciamo autodifesa o forma di resistenza, chiamiamola come vogliamo, contro i secondini. E la storia di questa persona, di questo uomo, ci dice anche di come i prigionieri vengono trattati, no, all'interno del sistema carcerario. E cioè questo uomo era già stato trasferito da Rovigo a Vicenza, poi a Verona e poi a Udine. Beh, ricordiamo intanto che Udine ha un sovraffollamento mostruoso, superiore addirittura alla media nazionale. Attualmente sono circa 170 prigionieri contro 82, contro 90 posti, diciamo, regolamentari. E lui viene trasferito e viene messo, perché viene definito insomma un insubordinato per eccellenza, un violento, viene messo in questo regime 32, che sarebbe è un articolo insomma che prevede una condizione simile all'isolamento che viene applicato per motivi cautelari verso i prigionieri che insomma reagiscono, diciamo, ed è una condizione che ti fa ti comprime ancora di più e quindi fa esplodere poi le pentole a pressione. Però sempre in via Spalato è successo un altro fatto, e questo è successo ieri. Appunto un prigioniero ha colpito al volto con un pugno una guardia, proprio per, come azione disperata per farsi trasferire. Quindi vediamo queste due situazioni, diciamo, trasferimenti coatti di male in peggio e quindi forme di resistenza anche a questa condizione, e invece reazioni, diciamo, fisiche proprio per farsi trasferire, no? Quindi, intanto, prima di tutto, diamo solidarietà a tutte le forme di resistenza, anche le più disperate, e ricordiamo che chi è dentro una gabbia non è in una condizione è in una condizione estremamente coercitiva, estremamente violenta, cioè gli viene fatta una violenza quotidianamente, gli viene fatta violenza 24 ore al giorno, quindi tutte le reazioni sono reazioni di resistenza per quanto ci riguarda. Però questa roba viene continuamente sfruttato, questa legittimità per usare una brutta parola, ma insomma, delle reazioni all'interno del carcere, viene continuamente usata dai sindacati della polizia per, appunto, usare toni roboanti. Parliamo del SAP in questo caso, che parla addirittura di guerra. Tra l'altro, un rappresentante del SAP che ora è a Udine, ma era a Tolmezzo ed era famoso per far parte delle squadrette punitive all'interno del carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, parla appunto di una guerra e appunto invoca taser e body cam per gli agenti e addirittura l'espulsione dei detenuti stranieri e la riapertura degli ospedali psichiatrici giudiziari, no? Perché appunto le forze dell'ordine ragionano in questi termini qua, cioè inevitabilmente quella che è la loro struttura di personalità e per quello che è il loro lavoro ragionano in questi termini qua. Ci ricolleghiamo con questa questione del carcere di Via Spalato per annunciare una iniziativa che ci sarà domani, anzi due iniziative, cioè due momenti di mobilitazione contro il CPR di Gradisca, ma contro chiaramente tutto il sistema dei lager di Stato che sono i CPR. Ci sarà alle ore 14 a Gorizia un presidio davanti al Tribunale, in quanto domani c'è una udienza del processo che vede imputati due persone per la morte di Vakhtang Enukidze, che è un prigioniero del CPR di Gradisca di Sonzo, che morì a gennaio del 2020. E poi ci sarà alle ore 18 un presidio solidale davanti appunto al CPR stesso, per andare insomma a dare un saluto e un incoraggiamento ai prigionieri che sono dentro, rinchiusi dentro questo lager. Due parole ancora sulla faccenda di Vakhtang. Allora, lui, appunto, siamo nel gennaio 2020, sembra che ci sia stata all'interno della cella un diverbio tra prigionieri e intervengono le guardie in antisommossa e si accaniscono su questo uomo georgiano, dandogli colpi insomma sì fatali. E poi Vakhtang viene portato in carcere, per due giorni rimane in carcere, e quando viene riportato nel CPR è distrutto, praticamente non si regge in piedi, si lamenta continuamente perché sta malissimo, però non viene assolutamente soccorso e non viene portato nemmeno all'ospedale. E appunto dopo la prima notte del rientro al CPR, la mattina seguente i compagni di cella lo trovano caduto dal letto, insomma incosciente, viene portato all'ospedale solo in quel momento lì e poi morirà. E questo è proprio una, come ci dicono le compagne e compagni dell'assemblea no CPR del Friuli Venezia Giulia, la faccenda di Vakhtang è paradigmatica, diciamo, di cosa succede all'interno dei CPR, di tutte le strutture detentive di questo tipo. Questo processo è paradigmatico anche perché appunto vengono accusati di omicidio colposo Simone Borile, che era allora presidente, comunque capo, una figura apicale della cooperativa Echene, che tuttora gestisce il centro, il CPR, e poi Roberto Maria La Rosa, che era allora il centralinista. Quindi vengono presi due, il presidente chiaramente, essendo responsabile della struttura, non è proprio... Sì, è una figura apicale, appunto, ma vengono prese due figure per non ammettere, smascherare che questa è una morte di Stato, come tutte le morti che avvengono all'interno appunto delle strutture detentive, e questo accanimento, violenza sistematica, trascuratezza rispetto alle condizioni sanitarie è una questione strutturale di questi luoghi. E, tra l'altro, proprio non mi ricordo se oggi o ieri, comunque il decreto Albania è diventato legge. Quindi sì, insomma, siamo praticamente 2 giorni fa è diventato legge. E praticamente in questa modo qua, quelli che in Albania dovevano essere centri per richiedente asilo, chiaramente una cosa allucinante, cioè anche già i centri per richiedenti asilo erano una cosa allucinante, cioè sono una cosa allucinante e implicano l'esternalizzazione anche delle frontiere, insomma, e del diritto d'asilo, ma diventano con questo sono diventati, e viene stabilizzato essendo diventata legge, diventano CPR, quindi possono essere trasferiti in Albania anche coloro i quali finiscono nei CPR qua in Italia. E non è solo l'Italia che fa queste robe, cioè non è solo l'Italia uno stato assassino, tutti gli stati dell'Unione Europea sono in questa situazione qua. E proprio la Commissione Europea sta facendo un lavoro di svuotamento del diritto d'asilo e di sostegno sempre più esplicito, palese, alle politiche securitarie dei governi, e difatti praticamente questo discorso di rinforzare, diciamo, la Fortezza Europa e di tenere lontani, quindi, dalla Fortezza Europa anche i richiedenti asilo e tutti i migranti, ma in particolar modo anche i richiedenti asilo, appunto questa tendenza si manifesta per il fatto che è stato presentato dall'Unione Europea un piano per praticamente aprire la possibilità di trasferire coloro i quali richiedono l'asilo in paesi terzi, quindi in paesi extra UE, anche se questi paesi non hanno nessun legame con la persona che fa richiesta di asilo. Quindi semplicemente se questa persona è passata per un paese extra Unione Europea e entra nell'Unione Europea, può essere deportata in questo paese terzo dal quale è solo passata, con il quale non ha nessun legame, e lì saranno svolte le pratiche per vedere se ha diritto all'asilo o no. Quindi, e tra l'altro appunto praticamente questa roba qua rende anche impossibile la richiesta dell'asilo, ecco, quindi, perché non si può presentare ricorso, insomma, quindi è proprio siamo di fronte proprio a una guerra sempre più dichiarata, sempre più feroce verso i migranti, e la Fortezza Europa diventa sempre più, non solo l'Europa, ma restiamo nell'Europa, insomma, in Italia, in Europa, diventa sempre più una appunto una fortezza che vuole tenere lontano le eccedenze dal suo cuore. Quindi ricordo questi 2 presidi di domani, ore 14, Gorizia davanti al tribunale, presidio di solidarietà e protesta contro i CPR e di solidarietà a Vakhtang e Nukiza e a tutti i prigionieri del CPR e anche alla famiglia di questo prigioniero ammazzato appunto nel 2020 all'interno del CPR. E poi alle 18 presidio solidale e di saluto davanti al CPR di Gradisca. E presento poi un'altra iniziativa che ci sarà invece sabato 24 a Udine alle 17:30 in piazza Matteotti. Ci sarà un presidio, assemblea informativa sul decreto sicurezza e sulle zone rosse. Sarà presente anche un avvocato, l'avvocato Antonio Mancino, dell'associazione di mutuo soccorso per il diritto all'espressione di Bologna. questa iniziativa organizzata dall'assemblea No Decreto Sicurezza e No Zone Rosse di Udine. E, ecco, è un'altra cosa, anche se siamo lontani, Udine e Cuneo, insomma, non è proprio la strada dell'orto, però ci tenevo anche a dire questa cosa qua. Il 24, quindi sempre sabato, ci sarà un corteo a Cuneo, città, carcere, città, con partenza alle ore 15 dalla stazione di Cuneo. Questa iniziativa è importante perché, beh, è importante perché unisce la città con il carcere, no? Ed è questa è una cosa che bisogna fare assolutamente. E poi perché fa parte di una serie di iniziative sul 41 bis, iniziative che contro il 41 bis chiaramente e contro l'ergastolo, in solidarietà con Alfredo Cospito, con il compagno che ormai è da 3 anni in 41 bis a Bancali, e sono anche iniziative preparatorie, diciamo, al processo per l'operazione City, processo che riguarda appunto il corteo che si è svolto a Torino, corteo solidale con Alfredo. E, sì, questo insomma va, sì, ci saranno altre date, il 1° giugno, ma ne parliamo comunque perché parleremo ancora di massima sicurezza, parleremo di 41 bis magari il prossimo giovedì, e anche di tutte le, di come l'Italia, questo stato assassino che è l'Italia, non solo, cioè, esporta anche questi mostri giuridici, li esporta un po' in tutto il mondo, dal Cile alla Francia, per capirsi. E niente, quindi è giusto battere questo ferro, insomma, e continuare e non, cioè ricominciare, direi, con più forza a la lotta anche contro il 41 bis, e non dimenticarsi, insomma, delle 700 persone circa che sono nel nostro paese, che vivono in questo regime. Vabbè, per stasera siamo un po' agli sgoccioli, lascio la parola alla regia per i saluti e per i contatti, e alla prossima, ciao. Inserisco anch'io in coda, oltre che per i saluti a tutti, insomma, voi che ci avete ascoltato, anche per ancora altre due iniziative molto importanti, concentrate sempre in questi giorni. Trieste, martedì 27 maggio, al CNULP in via Madonna del Mare 7A, alle ore 18 ci sarà, ospite di Antitesi, organizzazione comunista, ci sarà Pasquale Abbattangelo a presentare la sua autobiografia, diciamo così, in senso lato, Correvo pensando ad Anna, una storia degli anni 70. Secondo appuntamento, sempre, diciamo, zona nord-est, che insomma in qualche maniera è legato anche questo a importante per noi, c'è una diciamo festa dello spazio Gigi Piccoli a Verona, uno spazio dove vengono organizzate varie iniziative, sabato e domenica, il 24 e 25 maggio, in particolare il 25 maggio alle ore 12, tavola rotonda sui TEA e nuovi OGM, ovvero confronto e prospettive future sull'utilizzo e diffusione dei TEA all'interno del mondo agroalimentare assieme a produttori e comitati. Molto importante anche questo, e sappiamo che ci ascolta anche da Radio Eustachio, quindi insomma pubblico che può raggiungere facilmente questo evento. E basta, ho finito, di nuovo parola all'altra parte del vetro. Bene, allora sfumiamo brutalmente questa band, che è una band polacca di Varsavia che si è formata all'incirca sul finire degli anni 80, loro sono i Post Regiment e noi ci stiamo ascoltando in sottofondo dei brani estrapolati dal loro album uscito nel 1998. Poi insomma, per ricordare anche nell'ambito musicale, un po' andando all'indietro, forse è difficile, magari se avete tenuto a mente le diversità, le tipologie di musica, abbiamo ascoltato gli Skoll, che è una band statunitense, poi i Jilted, band della zona di Alessandria, e poi a inizio programma, insomma tra un intervento e l'altro, avevamo ascoltato i Lisa Jihad, che è una band svedese che anche lì gli album, l'album che abbiamo ascoltato in sottofondo era del 1993. Ah sì, devo dire anche che Jilted invece i brani che abbiamo ascoltato sono presi dal loro ultimo album Nell'ingiustizia e nel silenzio, datato 2022. Bene, più che velocissimi, siamo proprio agli sgoccioli totali. E, ricordo che questa trasmissione è Zardins Magnetics, va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, trasmettiamo da Udine, e se volete contattarci potete farlo tramite posta elettronica scrivendo a liberetutti@autistiche.org, oppure intestare ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste 34121. Questa puntata di Zardins Magnetics, come ho detto, in diretta, infatti oggi è 22 maggio 2025, potete riascoltarla in rete cercando Zardins Magnetics Radio .noblogs.org, ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org, e ovviamente troverete all'interno del blog anche tutte le, diciamo, le puntate di questo programma di mesi e mesi e mesi arretrati, cioè arretrati di tempo fa fino a oggi. E salutiamo tutti, ovviamente anche chi ci ascolta domani in replica sulla web radio dalle ore 17 Radiazione, e anche chi ci ascolterà sempre sulla web radio Radio Eustachio dalle ore 11. Ciao a tutti, e vi lascio con forse pochissime note, se volete chiamarle note, o come fate tutti, Caos. E loro sono i Post Regiment. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.